noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Perotti contro Cordaz. Parte Perotti! Roma 1 Crotone 0 dopo 10 minuti. Ho cambiato, alla fine sono arrivati 3 punti che oggi non sono importanti per proseguire la rincorsa con quelli che sono lì davanti. Attenzione, che la palla è buona per Lulic che tocca di testa, la palla rotola in porta. Lulic! Noi dobbiamo vivere la giornata così come stiamo facendo, dobbiamo continuare a giocare in questo modo, sono convinto che potremo toglierci delle grandi soddisfazioni. Parte Dybala, rete e gol grandioso di Dybala, il terzo su punizione. Oggi la squadra ha fatto, sotto quell'aspetto lì, ha fatto un passo indietro rispetto ad Udine e la prestazione che abbiamo fatto oggi non basterà sicuramente per fare una bella prestazione, un risultato importante a Milano, questo è poco ma sicuro. Siamo ancora sull'altalena e questo non va bene. Il passaggio Mertens, l'ho visto di Avarà, l'idea non è male, indietreggia Perin, Mertens! Mertens! Aggancio strepitoso, sinistro ancora meglio, Mertens! Questa è una partita da vincere in maniera larga, da vincere con 30-35 minuti d'anticipo sulla fine della partita e invece l'abbiamo tenuta viva, quindi delle responsabilità l'abbiamo, se poi si parla dell'aspetto tecnico e tattico abbiamo fatto una partita ottima. Mi piace fare gli originali, dal basso, che poi basso, quarto posto, verso l'alto, quello che è successo ieri, solo conferme, solo 3 punti per tutti, Roma, Lazio, Juventus, dell'Inter avevamo già parlato avendo giocato martedì sera, Napoli che ieri ha giocato in maniera eccellente per 70 minuti a Genova, poi ha rischiato qualcosa nel finale, ha fatto turnover, insomma un trionfo anche lì, vittorie di segno diverso queste, ma comunque tutte vittorie, di questo parliamo. Giorgio Veruca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, 800 24 00 24 per parlare con noi e con Pierluigi, con me e con Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ma i due tori scatenati, ci penso tutte le volte, siamo io e te? Sì, non lo so, bisogna chiedere a De Luca. Vuoi cambiare? Direi di sì. Cambiamo. No, mi fa piacere questo. No, sì, mi piace, mi sento molto un toro scatenato. Ero lusingato dalla cosa, insomma. Vabbè, comunque, ma magari cambiamo. A proposito di toro, poi parliamo anche di toro, perché ieri non benissimo a Firenze. Parliamo dopo il primo traffico di Milan, che non abbiamo appositamente inserito in questo montaggio. Ti faccio notare, Pardo, che alla decima giornata dell'anno scorso la Juventus era prima in classifica con 24 punti. Oggi Juventus e Lazio, sì, che sono terze, ne hanno 25, quindi è un campionato che va a velocità, gira a velocità folle. Guarda, ho elaborato un concetto proprio veloce che è abbastanza, ieri alla mezz'ora, ieri non lavoravo, no? Ho fatto Interzamp, quindi ieri sera mi sono visto le partite. Alla mezz'ora era praticamente tutto chiuso, anche se poi in realtà la Roma, la Lazio e anche il Napoli, volendo, erano anche incerte fino all'ultimo, come diceva anche Sarri. Però tendenzialmente era già tutto chiaro. Quindi ci sono purtroppo tante partite dall'esito scontato. La cosa positiva, il bicchiere mezzo pieno, è che gli scontri diretti sono meravigliosi, perché il peso delle vittorie nei big match è ancora maggiore rispetto al passato. Però sì, la sproporzione è troppa e bisogna fare qualcosa. Non so se sia tornare a 18, se sia riequilibrare i soldi delle televisioni. Peggiora ogni anno. Benevento fa tenerezza, dai, diciamoci la verità. Lì in fondo alla classifica, 0 punti dopo 10 giornate, sì, non è una cosa proponibile. Pareggia al 95esimo. Se il Benevento pareggia al 95esimo e prende il gol al 96esimo, mentre in questo momento è arrivato il tweet vittoria di Pierpardo nella schedina verso Capuano Gio, vabbè, insomma, mi sembra abbastanza la logica. Hai vinto? Stiamo riportando la casa, la chiesa, anzi più che la casa, al centro del villaggio. La chiesa al centro del villaggio. Sempre al centro del villaggio. Ti faccio sentire qualche voce, così introduciamo questi temi. Allegri, non contentissimo dopo la vittoria della Juventus con la spalla. Noi abbiamo rispetto il Napoli, abbiamo rispetto l'Inter, le squadre che lottano per il campionato sono in testa, quindi noi bisogna arrivare a marzo insieme a loro. Poi ripeto, Quest'anno il campionato si deciderà all'ultima partita, perché le ultime 5 partite noi abbiamo 3 scontri diretti e da lì passa il nostro campionato. Però bisogna arrivarci attaccati. Se ci arriviamo attaccati sicuramente avremo dei vantaggi e avremo grandi possibilità di vincere. Se non ci arriviamo attaccati è praticamente impossibile. Ma per arrivarci attaccati bisogna migliorare queste cose. Invece abbiamo troppa altalena. Infatti domenica a Udine fortunatamente siamo rimasti in 10. Domenica a Udine fortunatamente siamo rimasti in 10. Bisogna rendere le sfide più difficili, per migliorare la Juve. Dove sei? Ci stai? Guarda, non lo so, a me sembra, lo dico da, so di essere impopolare, però a me tornare a 18 sembra proprio una ammissione di incapacità. Secondo me c'è un tema, che è quello fra l'altro che in qualche modo è nelle aspirazioni del progetto adesso di Lotti, che riguarda la ripartizione dei diritti televisivi, che è un primo tema importante. E poi probabilmente il meccanismo di paracadute fra A e B può essere rivisto, nel senso che oggi mi sembra che ci sia troppa poca differenza fra una bassa Serie A e una alta Serie B. La Serie A deve essere una cosa clamorosamente importante, certo. Cioè non si deve, la salvezza deve essere, lo sottolineo fra mille virgolette, un dramma sportivo ovviamente, no? Bisogna lottare per evitarla al 100%. Questo meccanismo di ascensore che c'è di alcune squadre fra A e B, secondo me comincia a essere un po' preoccupante, ma il tema fondamentale è la ripartizione dei diritti, secondo me. Allora, altra voce, altro regalo, tra le tante cose, mettiamola così, non voglio più usare altre parole, sentite in questi giorni quella dichiarazione ha fatto rumore di Mihajlovic sulla storia di Anna Frank. Ieri Mihajlovic, dopo la sconfitta, ha corretto un po' il tiro. Ho preferito non parlare di questo argomento e tutto, perché è un argomento molto delicato e non mi andava di dire qualcosa di non esatto, ecco. Comunque anch'io sono contro ogni tipo di razzismo, visto che io puntualmente lo subisco ogni domenica negli stadi con i continui insulti, perciò io sono primo a capirlo. Lui è primo a capirlo, vabbè, lo sa benissimo, non dimentichiamo, sì, insomma, sì, nel passato, di sinistra, no? Io, una maglietta Target, sai, con amicizie pericolose. Detesto una cosa di quest'epoca, che è prendere una frase di una persona, estrapolarla e fare un processo che, sì, poi no, essenzialmente, certo, è un processo su social network su una frase sbagliata. Quindi, detto questo, gogna quella frase lì era profondamente sbagliata. Piazza, sì, sì. E diciamo, è vera questa cosa di Mihajlovic, sicuramente Mihajlovic è uno che subisce ed è un malcostume ed è sbagliato una serie di insulti, quindi il discorso di ieri sera non fa una piega, che lui spesso venga insultato ed è una vergogna, come è una vergogna la discriminazione territoriale verso certe zone, cioè, certo. Poi sai, c'è l'aspetto legato ovviamente a tutto il mondo ebraico, ma c'è anche tutta la discriminazione sui giocatori neri, quella territoriale, quindi questo è un tema enorme che non bisogna mai discriminare, punto. Detto questo, insomma, l'altro giorno ha sbagliato secondo, certo, me in maniera, non ci sono grandi dubbi, non ci sono grandi dubbi. Allora, torniamo a bomba sul calcio. Puoi dire, preferisco non commentare, ma non puoi dire. Puoi dire cosa, stare zitto, che fai miglior figura. Comunque, torniamo sul calcio. Che gol Mertens ieri sera. Che gol pazzesco. Fai quel controllo, è una cosa da pochi. Sarri sul suo miglior giocatore e su quello che, a mio parere, in questo momento è il miglior giocatore del campionato. Mi ha fatto un controllo di livello straordinario, è da attaccante centrale è diventato un fuoriclasse, quindi sì, mi ritengo fortunato ad avere un fuoriclasse come Mertens. Io sono l'unico premio che possa avere è che ce l'ho messo. Dopo un piccolo momento di appannamento, Mertens stava cominciando a raccogliere delle alzate di sopracciglio. Ma che cos'ha sto ragazzo? Cosa volete che abbia? Magari giù di condizione, magari è un po' stanco, magari ha raffreddore, magari ha litigato con la moglie o non gli piaceva il cibo. Beh, si può discutere un giocatore così? Ma no, vabbè, ma questo fa parte di una cosa ormai che è la velocità del nostro tempo, per cui uno sbaglia una partita e viene discusso. È stato discusso Hamsik perché non segnava in cambio di stagione. Ricordo. E ogni mattina il mondo di Twitter, che io amo fra l'altro, perché non sono ipocrita in questo, lo amo, cioè, però ogni giorno ci sveglia con una polemica diversa, stai di qua o stai di là, stai con la Pellegrini o stai con Giun. Cioè, voglio dire, vale, vale su tutto, vale veramente su tutto. Mertens è un fenomeno, Mertens è un fenomeno, e l'altra cosa divertente è che da due problemi, la cessione di Higuain e l'infortunio di Milik, quindi da due difficoltà sia nata un'opportunità, e questo è il grande merito di, certo, di Sarri, cioè, questo è indiscutibile, soprattutto di Sarri e dello stesso Mertens, ma insomma il giocatore è pazzesco, e anzi secondo me l'altra sera ha dimostrato semplicemente contro l'Inter, ci ha voluto mandare un segnale che è umano pure lui, cioè ci ha detto anche io delle volte ci mancherebbe, sono altro, stanco, ma ci mancherebbe altro, poi ieri sera fa forma di doppiettona quel gol che ti lascia onestamente a bocca aperta, guarda quel controllo. Ma ieri con la tanti suola. Bei gol, anche Bernardeschi ha fatto un gran gol. Gol meraviglioso. Bala, sì, insomma, sì, io, sì. Ieri tanti. Un mercoledì di grandi gol e di risultati tutto sommato scontati. Il più pesante e importante, secondo me, tra le grandi è quello della Lazio, perché Bologna è un campo non semplice. Ci fermiamo per il traffico, torniamo con l'argomento Milan. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Dentro per Kalinic, posizione regolare, Kalinic è solo, Kalinic! Nikola Kalinic con l'esterno! Sono tutti responsabili sia con lui che senza di lui, quindi è un gruppo unito, ripeto, sono uscite tantissime cose ma sono tutte sbagliate. Non dobbiamo continuare così, dobbiamo fare come oggi e sabato ci sarà una bella partita. Allora, vittoria del gruppo, io credo che alla squadra in queste ultime partite abbia dato delle risposte temperamentali di grande gruppo, non era facile giocare in queste condizioni, soprattutto nelle ultime due partite, anche in inferiorità numerica domenica scorsa. Questa scintilla non mi basta, alla squadra non deve bastare, e mi auguro che possiamo accendere davvero quella fiamma giusta sabato prossimo, perché siamo ancora indietro rispetto ai nostri sogni, alla nostra ambizione e soprattutto al nostro valore, al valore della squadra. Al di là di accendere le fiamme all'inferno del diavolo, è troppo facile questa, quella sulla voce di Montella, c'è, cioè, questo 1-4 a Verona, non c'erano altre chance per il Milan e per Montella se non la vittoria. Ad Allegri non è piaciuta la Juventus, io credo però che insomma sia per il Milan sia ultima chiamata, ma banalmente per questioni numeriche. La Lazio in questo momento, che è quarta, è a più 9, quindi praticamente il Milan è con le spalle al muro. Filippo Galli ha attraversato varie edizioni del Milan vincente e oggi è responsabile del settore giovanile, come ben sapete. Buongiorno Filippo, ciao. Buongiorno, ciao a tutti voi, ciao ciao. Ciao, senti, vai tu con Filippo Pierluigi alla prima, perché io gli voglio bene, cominciare sì, con una domanda cattiva. Bella là. Perché? No, sto scherzando. Perché può essere la svolta? Può essere la svolta? Beh, sicuramente potrebbe essere questo arrivato da Verona contro il Chievo, un segnale importante. La squadra, per chi avesse dei dubbi, era con Montella, e quindi ha fatto una prestazione importante, poi in un primo tempo dove sicuramente era contratta, dove ha sbagliato qualcosa, però poi alla fine il risultato ha dato ragione, perché era normale che fosse così, no? Che ci fossero delle difficoltà dal punto di vista dell'affrontare questa partita che era fondamentale. Per cominciare a dare una svolta, così come ha detto Montella, no? È chiaro che non gli basta, perché adesso c'è la prova, il banco di prova importante con la Juventus, però insomma, il distacco di 9 punti, come dicevate voi, con la Lazio è un distacco importante, quindi è davvero fondamentale riuscire a fare risultato, fare prestazione con la Juventus, e sappiamo quali potranno essere le difficoltà. Senti Filippo, ma com'era onestamente in questi giorni l'area di Milanello? Tu che la conosci bene. Ma guarda, io non sono stato a Milanello in questi giorni, mi sono occupato appunto di settore giovanile, qualcosa arriva sempre, perché comunque un po' la si percepisce anche da lontano. È chiaro che c'era un clima di fiducia comunque, perché la squadra ha sempre lavorato bene durante la settimana, ha sempre creduto in quello che faceva, da quello che Montella proponeva dal punto di vista del lavoro settimanale, e ripeto, credo che sia stata ieri una risposta importante, così come lo era stato il secondo tempo, o comunque la parte di partita giocata in inferiorità numerica contro il Genoa in casa, seppur non è arrivato il gol. A volte le partite si sbloccano e quindi ci permettono di fare il vero risultato, e a volte poi insomma, ovviamente il risultato è quello che condiziona anche un po' tutti i, certo, tutto i pensieri e tutto, il resto. Questo è ovvio. Quindi è normale, certo, il risultato è importante nel calcio professionistico e lo sarà anche questo sabato. In Italia ha maggior ragione, certo che per Luigi Pardo il calendario è bastardo, perché dopo una vittoria come questa il Milan avrebbe avuto bisogno di un atterraggio più morbido rispetto alla partita con la Juventus. Beh, però tant'è, aria fritta questa. Ma sì, anche perché poi, sì, nel senso che poi comunque alla fine, anzi, può essere pure un'occasione. Cioè, da un lato è vero quello che dici, però insomma è anche vero che in passato il Milan per esempio aveva cominciato bene a Crotone, poi ha vinto la seconda partita, non è che per forza il calendario dopo le vittorie abbia proposto sfide complicate. La verità è che ha perso 12 punti e secondo me il Milan migliorerà, non c'è dubbio che possa solo migliorare da qui in avanti, perché ha più qualità di quello che dice la classifica. Il problema secondo me si lega un po' a quello che dicevamo prima, cioè che aver perso 12 punti in questo campionato non è come aver persi qualche anno fa. No, è chiaro, un campionato normale, ma è evidente. Cioè, i margini di recupero, vista la differenza tra grandi e piccole, sono pochi. Sì, Filippo, come la vedi questa storia di un campionato così spaccato? Ne parlavamo prima io e Pierluigi, è chiaro, la ricetta potrebbe essere ripartizione più equa dei proventi dei diritti televisivi, però sono storie lunghe, tanti discorsi, sì, esatto, tantissimi, troppi, però oggi, un campionato però così spaccato, tu ne hai giocati, quanti campionati di hai giocato? Non ricordo, ho perso il conto. Con il Milan 14 stagioni, mi hanno iniziato la 14esima, poi sono una settantina di campionati di Serie A, ecco, non, è chiaro che non è mai vissuto situazioni di questo tipo, non esistevano situazioni di questo tipo. Non so, non ricordo, i primi anni di Serie A con il Milan sicuramente c'era anche lì, è vero che c'erano i due punti, forse erano meno spaccati, però già all'inizio si percepiva già che ci potevano essere due o tre campionati nello stesso campionato. Ma al di là di questo, io credo che anzi, la partita con la Juventus non è che arrivi a fagiolo, però è indubbio che è una classica partita che non occorre motivare dal punto di vista almeno della motivazione, ovviamente, perché è la Juve, la rivale di sempre, e quindi insomma i ragazzi saranno davvero pronti dal punto di vista mentale e motivazionale per affrontare nella maniera giusta. Sì, è chiaro, come diceva Pierluigi, ci sono squadre che stanno andando fortissimo, ci sono quelle quattro squadre lì davanti, la stessa Lazio, che forse era quella meno pronosticata, che sta andando alla grande, ha vinto ancora fuori casa ieri sera, e quindi insomma dobbiamo fare i conti anche con questo, però insomma anch'io sono fiducioso. Senti Filippo, oggi ho visto scritto da una penna illustre come quella di Mario Sconcerti che non è un caso che Milan sia tornato a vincere senza Bonucci. Secondo me è un po' tanto questo. Ma sì, insomma, voglio dire, è una casualità. Milan ha vinto con e senza Bonucci. Io credo che in un gioco di squadra non si possa mai parlare di un singolo che possa in qualche modo nel bene o nel male condizionare il risultato di una squadra, a parte qualcuno, ma parlo di Maradona piuttosto che di qualcun altro, però forse mi fermerei lì. Sì. Io credo forse Franco Baresi dal punto di vista difensivo a suo tempo, ecco, no, io a me non credo sia giusto e corretto ridurre tutto all'individualità in un gioco di squadra nel bene e nel male. Hai citato Franco Baresi, Pier, forse l'equivoco sta a monte, già qualcuno pensava che Bonucci fosse Franco Baresi, non è così. Un'ultima cosa, Pierluigi, hai commentato il Milan qualche volta quest'anno, no? Sì, fra l'altro lo commento anche sabato. Ma in realtà poco, l'ho commentato poco, però insomma l'ho vista spesso. Come hai visto Donnarumma fin qui? Ma l'ho visto, vabbè, è più interessante che il solito Filippo. Donnarumma è potenzialmente un grande portiere del futuro, credo che non ci siano grossi dubbi, lo dico toccando ferro, perché è un patrimonio veramente del calcio italiano in prospettiva, quindi fin qui non è il miglior portiere del campionato, diciamo, non è stato tanto aiutato e forse non ha fatto neanche cose clamorose, non so se Filippo condivide il giudizio, sta giocando benino. Io credo che Gianluigi abbia fatto il suo, esatto. a volte ci si aspetti da lui qualcosa di straordinario come sempre, come magari aveva fatto l'anno scorso, però insomma magari era visto anche con occhi diversi, certo. Quest'anno gli sta facendo bene, insomma io assolutamente non credo che sia assolutamente possa essere così un problema. No, hai detto la parola chiave, domanda tendenziosa, Gigi, ma Gigi, La chiave, Carlo, era visto con occhi diversi, ha perfettamente ragione Filippo. Cioè, l'anno scorso Donnarumma era il ragazzo prodigio e tutto quello che faceva di buono, ed è stato tanto, veniva visto ovviamente con enorme benevolenza. I rari errori che ci sono stati, penso a Pescara, venivano giustamente derubricati a piccoli peccati di gioventù. Quest'anno, dopo le vicissitudini contrattuali, un nuovo contratto e ovviamente con un anno in più di aspettative, ma è la legge della vita, non c'è niente di male, non c'è niente di strano, è la vita, è chiaro che l'aspettativa è più alta. Sta facendo il suo, è ovvio che Handanovic, ma lo stesso Reina, secondo me, che pure era stato tanto criticato, e Buffon, sì, stanno facendo cose. Ma sì, direi soprattutto Handanovic e Reina. Facendo due esempi di due portieri, appunto, che stanno giocando in due squadre, quindi dobbiamo contestualizzare rispetto al contesto, appunto, in cui si trovano immersi, in due squadre che stanno andando, certo, con fie vele, quindi questo aiuta sicuramente questi due portieri. Però io ripeto, per me Gigio sta facendo il suo, e quindi non credo che si possa dire nulla rispetto a quello che è il rendimento. Anche questa è la chiave, che può valere anche per Bonucci, sta giocando in un contesto diverso rispetto a quello a cui era abituato. La mia domanda tendenziosa era è diverso. No, diverso sì. No, Carlo, è diverso. È diverso perché, premesso che Bonucci non è colpevole di dire, cioè è ovvio che sta giocando in una difesa nuova, con tanti problemi attorno a lui, non ha la bacchetta magica, questo è indiscutibile. Però io credo che sia intellettualmente onesto dire che da Bonucci, proprio per la qualità che ha, per la stima che ho per lui, per la qualità del giocatore che è, ci si aspettava qualcosa in più. Questo io credo che sia normale, perché se arriviamo al punto di dire che è normale inizio di stagione di Bonucci, ma chi l'ha detto? Invece no, chi l'ha detto? Mentre Donnarumma sta facendo una stagione da 6 e mezzo, esatto, di un portiere che sta facendo il suo, che crescerà e che ha dei mezzi tecnici enormi, e gli auguriamo tutto il bene del mondo. Bonucci, che è un fuoriclasse già, perché è un giocatore fatto, finito, fuoriclasse assoluto, e lo è stato per anni, si è trovato in una situazione complicata e, insomma, fino adesso pure lui non è riuscito a risolvere i problemi, va detto, perché sennò capisci, diventa tutto, certo, tutto uguale. Certo, ho capito perfettamente. Io voglio chiedere un'ultima cosa molto rapida a Filippo Galli. Filippo, sì, c'è sempre una sorta di sinergia tra il modo in cui giocano le giovanili e quello in cui gioca la prima squadra? E se sì, come diavolo giocano le giovanili? Perché la prima squadra io non l'ho capita. Ma viene a vederle. No, pardon, non mi lascia, non mi manda. Molto, molto tendenziosa, no. Io credo che noi, rispetto a quello che fa Montella, siamo molto in linea, nel senso che soprattutto in un settore giovanile credo che si debba lavorare su principi di gioco e non su codifiche, è la stessa cosa che fa Montella, e quindi nulla da aggiungere, insomma. Ecco, noi credo che dovremo, il nostro compito è quello di formare un giocatore per la prima squadra, quel giocatore che noi definiamo evoluto, che quindi poi sappia adeguarsi a tutte quelle che sono le richieste che può ricevere il suo eventuale percorso, certo, professionistico, che sia al Milan o che sia da qualsiasi altra squadra. Mi pare che funzioni, guardare chi sta uscendo dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni. Grazie Filippo. Grazie a voi. Il discorso che sta facendo Filippo, volevo dire questo soltanto, che è interessante l'idea, io con Filippo ho parlato mille volte, è molto interessante l'idea che chi allena il settore giovanile debba pensare nel futuro, debba avere un'ottica di lungo periodo, nel senso che è ovvio che è importante vincere anche i campionati giovanili, ci mancherebbe altro, le singole partite, però quando si va in campo si vuole sempre vincere, ma è importante soprattutto costruire in prospettiva giocatori importanti, e questo non sempre coincide con le vittorie subito a livello giovanile, e poi avere una filosofia che sia una filosofia di gioco, addirittura una filosofia tattica in certi casi, tu pensa all'esempio del Barcellona, che sia in sintonia tra settore giovanile e prima squadra. Ciao Pierluigi. La vittoria, io dico che non è mai l'obiettivo, ma è sicuramente uno strumento formativo importante, e quindi deve essere intesa in quel modo. Bravo. Può essere come una verifica del lavoro che si è fatto, però non deve essere il primo obiettivo, che è quello di formare il giocatore. E la vittoria è uno strumento, perché è chiaro che gli alleni a vincere assolutamente. La vittoria di un allenatore della primavera, di un responsabile del settore giovanile, non è vincere il campionato primavera, poi se lo vinci meglio, ma è quello in 5 anni di creare un giocatore, 3, 4, 5, 6 prospetti clamorosi al club, perché è evidente, è diverso da questo punto di vista, è evidente, però è corretto dire che la vittoria è uno strumento formativo, perché li alleni a vincere, certo, magari a subire anche pressioni. Ragazzi, vi devo salutare perché ho la borsa con te, parlo, ci sentiamo domani con Filippo Galli, a presto. Ciao. mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20, mi manca a 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, conduco questo programma ormai da parecchio tempo, è uno dei miei momenti preferiti in assoluto, è quando c'è Emiliano Mondonico. Ciao. Che non lo sai. Felice. Io sono felice di natura. Assolutamente sì, guarda, ma proprio sai quanta gente è venuto a dirmelo. Lo so, te credo. Perché sei espansivo, sei semplice nella tua Emiliano, siamo gente della bassa, che vuoi da noi? Ma sei quasi due metri, anche tu sei della bassa. Sì. Sono della bassa, sì, di Pavia, con pardon, dove producono zanzare e riso, in nebbia. Ho capito. Che fai oggi? Allora, oggi no, adesso sto riposando perché questa settimana mi sembrava di essere un inventore. Ti dirò che ho organizzato delle partite tra le medie, sì. Le squadre di scuole medie e non so, e gli alcolisti, quelli con delle problematiche, ma soprattutto con gli amputati, la nazionale amputati, che sabato facciamo questa partita dove così per tanti motivi spero, mi auguro e sono sicuro che i ragazzi avranno molto da riflettere vedendo giocare a calcio questi ragazzi, come hanno visto gli alcolisti e come vedranno e così quelli di settimana prossima. Sì, ecco, ti dirò che mi ha fatto piacere ieri vedere proprio tutti quanti contenti come te. Ecco, diciamo che c'erano tanti come te, sempre perfetto, contenti e felici. Perfetto. Rocco è un ascoltatore, lo facciamo parlare con Emiliano Mondonico, così gli facciamo un regalo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Complimenti anche al mister per la sua carriera e il suo splendido modo di essere uomo e personaggio al tempo stesso. Io volevo, se mi permettete, volevo parlare un attimo del mio Milan, che finalmente dopo 7-8 partite il mister Montella ha capito che Suso deve giocare in quella posizione. Purtroppo succede, e questo vorrei chiedere a questo punto anche a Mondonico, come mai qualcuno si improvvisa alchimista e dice perché non mettere un po' di aceto nella pasta asciutta, creando dei disastri incredibili. Al tempo stesso, finalmente anche sulla Gazzetta si sono resi conto che sulla fascia destra si crea gioco, sulla fascia sinistra non c'è niente, perché anche ieri sera era il vuoto deserto, il deserto dei tartari, non c'era gioco, perché Rodriguez, messo terzo centrale, non spinge più ovviamente. Morini, centrocampista a sinistra, non rende come a destra, non ha concluso niente. E poverino Çalhanoğlu, mamma mia, avrà fatto gol. A me non dispiace così tanto. Il problema è che in una squadra così improvvisata è molto difficile giocare. Emiliano, una delle situazioni per noi allenatori più piacevoli è quando abbiamo dei giocatori universali. I giocatori universali sono quelli che sanno giocare in tutte le posizioni di tutti i moduli. È chiaro che nel nostro modo di vedere il calcio questi giocatori sono quelli che giocano sempre, perché potendo giocare in più ruoli chiaramente c'è sempre un posto per loro, magari anche a discapito di altri giocatori che sono semplicemente bravi in un unico posto del modulo. Sai, e ogni tanto ci piace inventare, perché ci mancherebbe altro, altrimenti che banalità è fare l'allenatore. ogni tanto gli allenatori sono quelli che inventano. Cavolo, ho inventato questo, ho inventato quello lì. No, per cioè, carità. La, però... la cosa più bella è quando fai i cambi, e quello che fai i cambi fa gol. E lì, sì. tu sei quello che cavoli, che hai cambiato tutto, certo. Che hai scoperto, ma deficiente, non potevi metterlo prima. Hai capito? E perciò c'è questa situazione che è molto molto il positiva. Il calcio è meraviglioso, uno sport meraviglioso proprio per questo. Sì, ma un'ultima cosa, poi c'è il traffico, ma ti tengo in linea perché ho una copertina per te. Allora, io fossi Montella, andrei con il modulo mio, qualunque esso sia, e con 11 giocatori battezzati che considero miei giocatori, adatti a quel modulo, per adesso per 5-6 partite, niente turnover, niente di tutto questo, si gioca col mio modulo e con i miei uomini. Poi se devono mandarmi via, almeno l'ho fatto con la mia testa. Fermo, perché gara c'è la Juve, attenti. Quindi se un modulo va bene contro una squadra con la Juventus, bisogna fare molta attenzione, bisogna andare a prendere i giocatori specifici abituati da sempre a giocare in quella maniera, perché ci sono anche gli avversari, e spesso e volentieri gli avversari hanno dei punti deboli, e perciò tu quando metti in campo la squadra sai già che devi attaccare a destra e concludere a sinistra, perché gli avversari su una fascia sono deboli, sugli altri sono abbastanza così, abbastanza aperti. E perciò è chiaro che ogni gara ha una propria storia. Uh-huh. Ecco, io sono d'accordo che non si deve far giocare sempre quelli, perché c'è qualcuno meglio di un altro in una determinata zona del campo, e se in quella zona c'è il punto debole degli avversari. Sì, tu devi andare lì, è chiaro. Io assolutamente cambio subito quello che è successo la domenica precedente. È molto molto importante, secondo me, non far giocare sempre quelli, ma far giocare quelli più adatti anche all'avversario. Allora, stai un attimo, ho il traffico, Riccardo da Verona, ma dopo il traffico sentiamo una copertina. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Bisogna cambiare, come ho detto, anche nel mio atteggiamento, perché, come ho detto, pensavo di avere forse una squadra matura che si potesse gestire, invece evidentemente non è così, perciò bisogna farlo, se ci avrò ancora tempo, bisogna farlo a modo mio, ecco, questo già da domani, e vediamo quello che succede, se riusciamo a raddrizzare questa situazione, anche se io sono fiducioso. Anche Mihajlovic cambierà, perché cambierà e sarà quello di l'anno scorso, uno che comunque si fa come dico io e basta. Non ci sono le democrazie. Sono le dittature, in compenso. Mihajlovic è qualcosa, sa, credo, di questo argomento. Ma comunque lasciamo stare queste storie. Andiamo dritti su quella che è stata la partita del cuore di Emiliano Mondonico, no? Fiorentina-Torino. Sì, ho osservato. Tre fischi ha preso il Toro, ecco, non benissimo. Sto seguendo il campionato della Fiorentina come campionato del Torino. Dirò che nella mia valutazione questi sono due squadre che puntano o devono puntare a un posto in Europa, sì, così come l'Atalanta e la Sampdoria. Ecco, queste quattro squadre chiaramente, secondo me, sono quelli che romperanno le scatole alle grandi o presunti tali. Però scusa, maestro, il Toro in questo momento sta pagando l'assenza di Belotti. Guarda, cioè, sembra strano, sembra, però quando hai un giocatore con queste qualità e con queste caratteristiche, tutto il resto gioca in funzione di questo certo. Atleta. L'atleta non c'è, ed è chiaro che perdi un po' il punto di riferimento, ma soprattutto ti senti inferiore, perché questo amico, questo compagno, questo ragazzo che in questo momento non c'è, è quello che secondo te si assume anche tutte le difficoltà. Chiaro. E perciò sembra strano, no? Perché difficilmente abbiamo un giocatore che fa la differenza, ma quando ce l'hai devi sperare proprio di averlo sempre nella bambagia, altrimenti sono guai per tutti. Esatto, stesso discorso potremmo fare per Mertens, che però in questo caso è ipotetico e i napoletani si tocchino pure, facciano quello che vogliono, insomma. Riccardo Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Vi saluto a entrambi, in particolare al grande Mondonico, grande allenatore, grande persona. Allora, io sono un tifoso laziale, premetto di non essere un complottista di professione e dico anche che adesso purtroppo come tifoso laziale, anche se ovviamente è normale, non appartengo a nessun gruppo organizzato, sono in cudine e va bene e ci sta. Ci sta anche di caricare, come si è sempre fatto da anni, e lui si presta ovviamente a questo, caricare Lotito di essere un personaggio macchiettistico, lo sappiamo, sappiamo il personaggio, sappiamo quello che diciamo come un è personaggio trattato. Riccardo, che ha costruito un'eccellente squadra. Sì, resto parliamone, ma sarebbe lunga. Sì, esatto, parlavo di tutto il contorno. E, però, diciamo, parlo ovviamente del caso di questi giorni, no? Del caso eclatante di quello che hanno combinato, insomma, sì, quei pseudo tifosi laziali. E, ripeto, ci sta essere in cudine, però non ci sta, soprattutto quando si parla di cose così delicate, dire falsità, dire assolute falsità. Allora, io ero a Bologna ieri, sono entrato allo stadio perché sto a Verona, quindi vado in trasferta. Sì, quando arriviamo posso al punto, Riccardo, che sta finendo il tempo. Ecco, ok, stavo lì, sono entrato alle 8:15 e non ho sentito assolutamente nessun coro fascista, cosa che invece ho letto su tutte le testate. Guardi, ho guardato la televisione e ho letto, quindi non saprei che cosa risponderle. Non mi avrebbe sorpreso, ci sono stati, non mi sorprende, non ci sono stati, non mi avrebbe sorpreso, quindi uso forme temporali verbali diverse. Su quanto a questa vicenda io eviterei di tornarci sopra, si è già detto fin troppo. Invece sulla Lazio no, e allora chiedo l'ultima battuta in un minuto a Emiliano Mondonico. La Lazio è una cosa estremamente seria, continuo a ripeterlo, scusami mister, però a me piace da morire. Cavoli, veramente, cioè la Lazio, cioè dopo l'Inter, scusami per questa mia provocazione, la Lazio è la sorpresa di questo campionato. Dai, nessuno pensava che l'Inter fosse seconda in classifica, nessuno pensava che la Lazio, con tutti i suoi se ma perché, fosse in simile situazioni. Non per niente adesso si stanno riformando le sette sorelle, forse sei più che sette. Sì, perché una sorella non è ancora rientrata alla base, è ancora in giro per il mondo a non si sa a fare che cosa. Guarda, veramente la Lazio come gioca, la Lazio calcistica è affascinante, perché ha una metodologia, ha un modo di stare in campo, anche un modo quando uno lo tiri fuori, perché ieri Inzaghi ha tirato fuori il capitano e non so, forse si sono baciati o si sono dati appuntamento, non so cosa è successo, ma capita. Cioè, l'errore che ha fatto Inzaghi, e io lo posso dire per esperienza, è quello di guardarlo in faccia. Quando tu tiri fuori qualcuno, vai dall'altra parte. Guarda dall'altra parte, come Dan Peterson, che conosci bene, che andava in fondo alla panchina per non vedere quello che aveva tirato fuori. Mister, è sempre un piacere enorme averti mio ospite, nostro ospite, ma adesso dobbiamo chiudere. Quindi ringrazio Emiliano Mondonico, così come Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato, in regia, e vi do appuntamento domani alle 2. Ciao. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!